preziose, le gustai affinatamente. Erano belli questi ricci, con il pane di limone. Com'erano belli questi ricci, che io mi mangiai. Com'erano belli questi ricci, con il pane di limone. Com'erano belli questi ricci, che io mi mangiai. Una volta andai al mare e sai che feci? Mi mangiai i ricci e poi presi le forbici e tagliai accuratamente. In estate andai al mare e sai che feci? Gustai i ricci, poi mangiai e gustai accuratamente. Erano belli questi ricci, con il pane di limone. Erano belli questi ricci, che io mi mangiai. Com'erano belli questi ricci, con il pane di limone. Com'erano belli questi ricci, che io mi mangiai. Come erano belli questi ricci.